Allora, in questo momento siamo nel chiostro ottagonale all'interno dell'area monumentale di San Michele in Bosco, cioè a dire dentro l'Istituto Ortopedico Rizzoli. A parte appunto l'importanza storica dal punto di vista clinico, anche dal punto di vista artistico, qua siamo veramente circondati da meraviglie assolute. Sì, dietro di noi ci sono degli affreschi magnifici, tutto questo portico ottagonale, oltre a essere un'architettura straordinaria, è anche un luogo da riscoprire perché in qualche modo è uno scrigno nascosto all'interno di un complesso monumentale molto grande che abbiamo deciso, dopo le nostre vicissitudini a Villaldini, noi abbiamo avuto una residenza artistica lì per 4 anni. E adesso la villa è in restauro, è in una fase di ristrutturazione e quindi alla ricerca di una nuova residenza artistica ci siamo imbattuti fortunosamente e Siamo fortunatamente. caduti bene. Siamo caduti bene, siamo passati da una collina a un'altra, quindi in qualche modo il Rizzoli guarda Villaldini, Villaldini guarda il Rizzoli e ci ritroviamo qua. Il nostro ruolo in questo momento è quello di cercare di valorizzare artisticamente attraverso spettacoli, letture, incontri, questo patrimonio inestimabile e cercheremo di farlo a partire appunto da domani, il giorno in cui debutta il primo evento che è il riallestimento della Montagna Incantata pensato proprio per gli spazi del Rizzoli. E quindi si procede l'estate, se mai arriva 2024, io ci credo in quanto amante dell'estate, gli appuntamenti saranno con Archivio Z, già ha dato Gianluca la partenza, come si prosegue e con quali protagonisti? Allora, proseguiamo poi a settembre. Adesso appunto andiamo avanti fino al 7 luglio con le repliche di prima e seconda. Attenzione, sono due spettacoli diversi in serate alterne, quindi venendo 2 sere di fila si può vedere la prima e la seconda parte in maniera conseguenziale. L'abbiamo fatto apposta, anche se per noi è più complicato dal punto di vista organizzativo, ma è molto bello anche per gli attori, per la compagnia che sta lavorando da 3 anni a questo progetto. Poi noi allestiremo la terza parte della Montagna Incantata alla Futa in agosto e poi torniamo a settembre qui a Rizzoli e continua appunto il progetto, perché in realtà il progetto è un progetto più ampio che si chiama Vista Paradox ed è un progetto che prevede appunto la riscoperta e valorizzazione di tutti gli aspetti di questo luogo Sì, perché incredibile. ha un che di clinico. Ma è anche di clinico, perché in realtà la dicitura vista paradox afferisce alle neuroscienze, cioè è la percezione che noi abbiamo della realtà. La percezione sappiamo bene che non è sempre qualcosa che risponde a qualcosa di matematico. Questo, diciamo, questo nome è stato appunto scoperto da noi mentre studiavamo questo luogo. Esiste uno studio che definisce vista paradox l'illusione ottica del grande corridoio monumentale attraverso il quale, attraverso la finestra si vede la Torre degli Asinelli, il L'effetto cannocchiale. famoso effetto cannocchiale, che però è una dicitura riduttiva, Certo. perché in realtà non è un cannocchiale, non ci sono delle lenti che fanno sì che, come nel cannocchiale, si veda ingrandito. Qui abbiamo un effetto percettivo studiato in maniera incredibile nel Cinquecento e realizzato. Questo luogo è pieno di trompe-l'oeil, di effetti, e questo effetto sulla torre in realtà è proprio voluto e pensato proprio per valorizzare esteticamente uno dei luoghi simbolici della città. E in questo momento in cui la Garisenda è in un momento di cura estrema, è ancora più importante avere questo sguardo sul simbolo La di questa portiamo a città. Rizzoli. Esatto, noi da Rizzoli la guardiamo e la curiamo. Ne ha bisogno e onore al merito che sta salvaguardando e diffondendo Esatto. questi contenuti. Per quanto riguarda l'inizio, diamo dettagli un po' più precisi. Allora, iniziamo domani, il 14 giugno, andremo avanti fino al 7 luglio con la Montagna Incantata, appunto sul sito www.archiviozeta.eu potete trovare il calendario dettagliato della prima e della seconda parte dello spettacolo. Gli spettacoli iniziano sempre alle 18:30, all'ora del tramonto, quindi è un bellissimo momento perché questi luoghi si colorano di rosa, di azzurro, cioè veramente un luogo spettacolare. Poi, diciamo, ci saranno una rassegna di incontri che si intitolerà Incipit con alcuni scienziati e ricercatori del Rizzoli. Entreremo nei laboratori e nei luoghi, diciamo, della ricerca pura cultura, si coniugherà letteratura e scienza. Questo avverrà in settembre. Ci sarà un'altra rassegna che si intitola Punti di fuga, che invece coinvolgerà alcuni studiosi, storici e scienziati per analizzare alcuni aspetti, diciamo, più scientifici di questo luogo. Quindi, innanzitutto, l'archivio storico. Ci saranno degli incontri in cui si proietteranno alcune cartelle cliniche, alcune foto di questo archivio inestimabile che c'è qui a Rizzoli. Sono foto degli anni 10, anni 20, che riguardano la costruzione delle protesi, l'analisi delle colonne vertebrali, e sono foto, anche le foto dei mutilati della Prima Guerra Mondiale. Quindi è un patrimonio che tenteremo, grazie alla collaborazione con il professor Franco Motta, di valorizzare attraverso uno studio, ma anche attraverso dei momenti pubblici. Chiuderemo l'estate a fine settembre con una visita, conferenza, azione scenica dal titolo proprio Vista Paradox, per cui analizzeremo proprio il corridoio e questo effetto che raccontavamo prima, e sarà un modo proprio per dare una conclusione a questa prima percorso, fase, a questo sì. Primo percorso. Okay. C'è anche il 28 giugno, però noi partecipiamo insieme alla Fondazione Rizzoli a festeggiare il compleanno del Rizzoli, quindi compleanno sia del Rizzoli che della Fondazione, e faremo un affondo nel Segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, e sarà una lettura appunto itinerante nei luoghi. Quindi ci tenevo perché il 28 giugno è vicino e quindi è una data da segnare. No, ma è un motivo di conversazione che ci porta alla conclusione con una mia così personale curiosità. Perché la Montagna Incantata? Allora, una delle battute più importanti della Montagna Incantata riguarda proprio il fatto di non abbandonarsi alla morte, al pensiero della morte. Ecco, io credo che in questo luogo, dove si è tentato davvero nell'ultimo secolo di ricostruire i corpi umani e di dare un futuro alle persone che non avevano più gli arti, sia per motivi bellici, ma non soltanto relativi alla Prima Guerra Mondiale, purtroppo. Ricordiamo che sono stati qui ospiti dei bambini palestinesi già soltanto qualche mese fa, che non avevano più gli arti a causa delle bombe. Quindi diciamo che una delle battute più importanti della Montagna Incantata riguarda proprio il fatto che, occupandosi della morte e della malattia, in realtà ci stiamo occupando della vita. E il nostro lavoro punta un po' a questo, punta a unire il pensiero umanistico e quello scientifico, a trovare insieme delle soluzioni per prenderci cura dell'essere umano. Grazie di cuore. Grazie. Grazie, grazie.